Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan si recò difilato da Monsieur de Tréville. Aveva riflettuto che entro pochi minuti il cardinale sarebbe stato avvertito e con ragione pensava che non c'era un minuto da perdere. Il cuore del giovanotto traboccava di gioia. Gli si presentava un'occasione in cui c'era da conquistarsi gloria e al tempo stesso da guadagnare danaro, e come primo incoraggiamento lo riavvicinava a una donna che adorava. Questa fortunata coincidenza gli offriva di colpo più di quanto avrebbe osato chiedere alla provvidenza. Monsieur de Tréville si trovava in salotto con la sua solita corte di gentiluomini. D'Artagnan, conosciuto come uno dei frequentatori della casa, passò senz'altro nello studio e lo fece avvertire che lo aspettava per una cosa importante. Vi si trovava da 5 minuti appena quando Tréville entrò. Dalla prima occhiata e dalla gioia dipinta sul volto del giovane, il degno capitano capì che realmente stava accadendo qualcosa di nuovo. «Avete chiesto di me, mio giovane amico?» chiese Tréville. «Sì, signore. Parlate, vi ascolto». «Si tratta niente meno», disse D'Artagnan abbassando la voce, «che dell'onore e forse della vita della regina». «Che dite mai?» chiese Tréville guardandosi intorno per accertarsi che fossero proprio soli e riportando lo sguardo interrogatore su D'Artagnan. «Dico, signore, che il caso mi è reso padrone di un segreto che spero, giovanotto, manterrete a costo della vita». Ma che debbo confidare a voi, signore, perché solo voi potete aiutarmi nella missione che mi è stata or ora affidata da Sua Maestà. Questo segreto è vostro? No, signore, è della regina. Siete autorizzato da Sua Maestà a confidarmelo? No, signore, perché anzi mi è stato raccomandato il più assoluto riservo. E allora, perché state per tradirlo con me? Perché, ve lo ripeto, senza di voi nulla posso, e temo che mi rifiutiate la grazia che vengo a chiedervi se non sapete per quale scopo ve la chiedo. Conservate il vostro segreto, giovanotto, e ditemi ciò che desiderate. Desidero che otteniate per me, da Monsieur de Cessart, un congedo di 15 giorni. E quando? Stanotte stessa. Lasciate Parigi? Vado in missione. Potete dirmi dove? A Londra. Qualcuno ha interesse che non raggiungiate il vostro obiettivo? Il cardinale, credo, darebbe qualsiasi cosa al mondo per impedirmi di riuscire. E partite solo? Parto solo. In tal caso non oltrepasserete Bondy. Ve lo dico io, parola di Tréville. E perché mai? Vi faranno ammazzare e la vostra missione non verrà compiuta. «È vero», ammise D'Artagnan. «Credetemi», continuò Tréville, «nelle imprese di questo genere bisogna essere in 4 per arrivare in 1». «Ah, avete ragione, signore», disse D'Artagnan, «ma voi conoscete Athos, Porthos e Aramis e sapete se posso disporre di loro, senza metterli a parte del segreto che io non ho voluto conoscere. Ci siamo giurati una volta per tutte fiducia cieca e dedizione a tutta prova». Tréville rispose, «Posso mandare a ciascuno di loro un congedo di 15 giorni. Ecco tutto. L'invio del congedo sarà la prova che autorizzo il viaggio». «Grazie, signore. Siete di una bontà infinita. Su, andate da loro immediatamente che tutto venga fatto stanotte. Ah, prima scrivetemi la richiesta per Monsieur de Cessart. Forse avevate una spia alle calcagne e la vostra visita, che in tal caso è già nota al cardinale, sarà in tal modo giustificata». D'Artagnan salutò Tréville, che gli tese la mano. Il giovane gliela strinse con un rispetto misto a gratitudine. La sua prima visita fu ad Aramis. Non era tornato dall'amico dalla famosa sera in cui aveva seguito Madame Bonacieux. Aramis svegliava, cupo e metidabondo. D'Artagnan gli rivolse qualche domanda su quella profonda malinconia. Aramis addusse come spiegazione un commento al 18° capitolo di Sant'Agostino che era costretto a scrivere in latino per la settimana seguente e che lo preoccupava assai. I due amici stavano chiacchierando da alcuni istanti quando un servitore di Monsieur de Tréville entrò portando un plico sigillato. «Che cos'è?» chiese Aramis. «Il congedo richiesto dal signore», rispose il servitore. «Ma io non ho chiesto nessun congedo». «Tacete e prendetelo», disse D'Artagnan. «E a voi, amico, eccovi una mezza pistola per il disturbo. Direte a Monsieur de Tréville che Monsieur Aramis lo ringrazia sentitamente. Andate». Il servitore si inchinò fino a terra e uscì. «Che significa questo?» chiese Aramis. «Prendete ciò che vi occorre per un viaggio di 15 giorni e seguitemi». «Ma non posso lasciare Parigi in questo momento senza sapere...» Aramis si fermò. «Che ne è stato di lei, vero?» continuò D'Artagnan. «Di chi?» riprese Aramis. «Della donna che era qui», disse D'Artagnan, «quella del fazzoletto ricamato». «Chi vi ha detto che qui ci fosse una donna?» ribatté Aramis diventando pallido come un morto. «L'ho veduta. E sapete chi è?» «Credo di supporlo, almeno». «Sentite», fece Aramis, «poiché sapete tante cose, sapete che ne è stato di quella donna?» D'Artagnan rispose, «Suppongo che sia ritornata a Tours». «A Tours?» «Sì, certo. Voi la conoscete, ma come mai è tornata a Tours senza dirmi nulla?» «Perché ha temuto di essere arrestata». «E perché non mi ha scritto?» «Perché ha temuto di compromettervi». «D'Artagnan, mi ridate la vita!» esclamò Aramis. «Mi credevo disprezzato, tradito. Ero così felice di rivederla. Non potevo credere che rischiasse la sua libertà per me. Pure per quale ragione sarebbe tornata a Parigi?» «Per la ragione che oggi ci fa andare in Inghilterra», disse D'Artagnan. «E qual è questa ragione?» «Un giorno la saprete, Aramis». Aramis sorrise. «Ebbene, allora, visto che lei ha lasciato Parigi e voi ne siete certo, D'Artagnan, nulla mi trattiene qui e sono pronto a seguirvi. Dove andiamo?» «Da Athos, per il momento. E se volete venire, vi invito anzi a sbrigarvi, perché abbiamo già perduto molto tempo». Aramis chiamò Bazin e, dopo avergli ordinato di raggiungerlo da Athos, «Su, andiamo», disse prendendo il mantello, la spada e le sue 3 pistole e aprendo invano 3 o 4 cassetti per vedere se vi trovava qualche moneta smarrita. Poi, accertatosi ben bene che tale ricerca era superflua, seguì D'Artagnan. Nell'uscire, Aramis appoggiò la mano sul braccio di D'Artagnan e, guardandolo fisso, gli chiese: «Non avete parlato con nessuno di quella donna?» «Con nessuno. Neanche con Athos e con Porthos non ho aperto bocca». Tranquillo su quel punto importante, Aramis continuò la strada con D'Artagnan e tutti e due in breve giunsero da Athos. Lo trovarono che stringeva in una mano il congedo e nell'altra la lettera di Monsieur de Tréville. «Potete spiegarmi che significano questi 2 fogli che ho ricevuto?» disse Athos stupito. «Mio caro Athos, poiché la vostra salute lo esige assolutamente, acconsento a che vi riposiate 15 giorni. Andate pure alle acque di Forges o ad altre che vi gioveranno e ristabilitevi al più presto. Vostro affezionato Tréville». «Ebbene, questo congedo e questa lettera significano che dovete seguirmi, Athos», disse D'Artagnan. In quel momento entrò Porthos. «Per Dio», disse, «ecco una cosa strana. Da quando in qua, tra i moschettieri, si accordano alle persone congedi non richiesti?» «Da quando hanno degli amici che li richiedono per loro», rispose D'Artagnan. Fece Porthos. «Sembra che qui ci siano delle novità». «Sì, partiamo», disse Aramis. «Per quale paese?» domandò Porthos. D'Artagnan disse: «Per Londra, signori!» «Per Londra!» esclamò Porthos. «E che ci andiamo a fare a Londra?» «Ecco ciò che non posso dirvi, signori, e dovete fidarvi di me.» «Ma per andare a Londra, soggiunse Porthos, occorrono quattrini, e io non ne ho.» «Neanche io», fece Aramis. «Neanche io», fece Athos. «Li ho io», riprese D'Artagnan traendo di tasca il suo tesoro e depositandolo sul tavolo. «In questa borsa ci sono 300 pistole. Prendiamone 75 ciascuno e quanto basta per andare e tornare da Londra. D'altronde state tranquilli, non ci arriveremo tutti a Londra. Allora stiamo per intraprendere una spedizione, e delle più pericolose, ho avverto. Ma allora, visto che rischiamo di farci ammazzare, disse Porthos, vorrei almeno sapere perché. Cosa ne ricaverai poi? Lo rimbeccò Athos. Eppure, disse Aramis, sono del parere di Porthos. Il re ha l'abitudine di darvi delle spiegazioni? No. Vi dice semplicemente: signori, si combatte in Guascogna, oppure nelle Fiandre. Andate a battervi e voi ci andate. Perché? Non ve ne preoccupate neppure. D'Artagnan ha ragione, disse Athos. La vita non merita che ci si pongano tanti quesiti. D'Artagnan, sono pronto a seguirti. Prima di tutto, dove andiamo? Chiese Porthos. A Calais, rispose D'Artagnan. È la via più diretta per giungere a Londra. Sono l'autore d'una lettera. Non ho e non posso farne tre copie perché la lettera è sigillata. Dunque, secondo me, bisogna viaggiare uniti. Questa lettera è qui, in questa tasca. Se verrà ucciso, uno di voi la prenderà e continuerete la strada. Se è ucciso anche lui, sarà la volta dell'altro, e così di seguito, purché uno solo arrivi. È quanto basta. Bravo, D'Artagnan! Il tuo parere è il mio, disse Athos. D'altronde, dobbiamo essere conseguenti. Io vado ai bagni, voi mi accompagnerete. Invece che ai bagni di Forge, andrò ai bagni di mare. Sono libero. Vogliono arrestarci? Tiro fuori la lettera di Monsieur de Tréville. E voi i vostri permessi? Ci attaccano, noi ci difendiamo. Di quattro uomini isolati si sbarazzerebbero facilmente, mentre quattro uomini insieme fanno un drappello. Se ci mandano contro un esercito, daremo battaglia. E il superstite, come ha detto D'Artagnan, porterà la lettera. «Ben detto!» esclamò Aramis. «Tu parli di rado, Athos, ma quando parli sei come San Giovanni Crisostomo. Io adotto il piano di Athos, e tu, Porthos, anch'io assentì questi, se conviene a D'Artagnan. E lui, l'autore della lettera, il capo della spedizione, decida e noi eseguiremo.» «Ebbene», disse D'Artagnan, «decido di adottare il piano di Athos e di partire fra mezz'ora.» «Adottato!» ripresero in coro i tre moschettieri. E ciascuno tese la mano alla borsa, prese 75 pistole e fece i preparativi per partire all'ora convenuta. L'aspetto della comitiva era dei più temibili. I neri cavalli dei moschettieri, l'andatura marziale di quei nobili compagni del soldato, abituati alla marcia regolare dello squadrone, avrebbero tradito il più stretto incognito. I servi venivano dietro armati fino ai denti. Tutto andò liscio fino a Chantilly, dove giunsero verso le 8 della mattina. Bisognava far colazione. Scesero a una locanda raccomandata da un'insegna raffigurante San Martino in atto di regalare a un povero la metà del mantello. Ordine ai lacchè di non togliere le selle ai cavalli e di tenersi pronti a ripartire immediatamente. I quattro entrarono nella sala comune e si misero a tavola. In quello stesso tavolo era seduto un gentiluomo appena arrivato dalla strada di Dammartin. Stava desinando. Intavolò una conversazione sulla pioggia e il bel tempo. I viaggiatori risposero. Quegli bevve alla loro salute. Essi gli resero la cortesia. Ma nel momento in cui Mousqueton veniva ad annunziare che i cavalli erano pronti e ci si alzava da tavola, lo sconosciuto propose a Porthos di bere alla salute del cardinale. Quegli rispose che non chiedeva di meglio, se a sua volta lo straniero era disposto a bere alla salute del re. L'altro gridò che non conosceva altro sovrano che sua eminenza. Porthos gli diede dell'ubriacone e lo sconosciuto trasse la spada. «Avete fatto una stupidaggine», disse Athos. «Non importa, adesso non c'è più da tirarsi indietro. Uccidete quell'uomo e venite a raggiungerci più presto che potete». E tutti e tre risalirono a cavallo e partirono a briglia sciolta, mentre Porthos prometteva al suo avversario di trafiggerlo con tutti i colpi noti nella scherma. «E uno», disse Athos dopo 500 passi, «ma perché quel tipo ha attaccato briga con Porthos piuttosto che con un altro?» domandò Aramis. «Perché siccome Porthos parla più forte di tutti noi, l'ha scambiato per il capo», spiegò D'Artagnan. «L'ho sempre detto che questo cadetto di Guascogna era un pozzo di saggezza», mormorò Athos. E i viaggiatori continuarono la strada. A Beauvais, sosta di 2 ore, sia per dar fiato ai cavalli, sia per aspettare Porthos, al termine delle quali, poiché egli non compariva, né si ebbe alcuna notizia di lui, ci si rimise in cammino. A una lega da Beauvais, in un punto in cui la strada si trovava rinserrata fra 2 scarpate, si imbatterono in 10 di uomini che, approfittando del fatto che lì la strada non era lastricata, sembravano lavorarci a scavarvi buche e a praticarvi dei solchi di fango. Gli operai cominciarono a prendersi beffe dei viaggiatori e con la loro insolenza fecero perdere la testa perfino all'impassibile Athos, che spronò il cavallo contro uno di quelli. Allora ognuno di quegli uomini indietreggiò fino al fossato, vi prese un moschetto nascosto. Aramis si buscò una pallottola che gli trapassò la spalla e Mousqueton un'altra che andò a conficcarsi nelle parti carnose che prolungano il fondo delle reni. «È un'imboscata», disse D'Artagnan. «Non spariamo neppure un colpo e filiamo». Aramis, per quanto ferito, si aggrappò alla criniera del cavallo che lo trascinò via insieme con gli altri. Quello di Mousqueton li aveva raggiunti e galoppava da solo al suo posto. «Così avremo un cavallo di ricambio», disse Athos. «Preferirei un cappello», disse D'Artagnan. «Il mio me l'ha portato via una pallottola. Fortuna davvero che non c'era dentro la lettera». Galopparono ancora 2 ore, benché i cavalli fossero così affaticati che c'era da temere che di lì a poco rifiutassero il servizio. A Crèvecoeur, Aramis dichiarò di non poter proseguire. Difatti, per arrivare fin lì, c'era voluto tutto il coraggio che gli nascondeva sotto la figura elegante e i modi cortesi. Impallidiva ogni momento e lo si doveva sorreggere sul cavallo. Lo fecero scendere alla porta di un'osteria e gli lasciarono Bazin, il quale d'altronde, in una scaramuccia, era più di impaccio che di utilità, e via di nuovo nella speranza di andare a dormire ad Amiens. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello, @rai.it.